listening to Rock FM. Signore e signori, 7:30 minuti primi, problemi? If you have a problem, if no one else can help, and if you can find them, nessuno vi può aiutare, the A-Team. E non trovate nessuno, cercate l'A-Team. A-Team, avremmo bisogno di te. Qui c'è l'Ariele negli studi di Rock FM ad accompagnarvi fino alle 9. Con tanto buon rock and roll. 335-100-7777 oppure ariel@radiorockfm.com. Continuano ad arrivare messaggi sul perché ascoltate Rock FM, è un piacere leggerli, dai. Intanto richiesta di strombazzata di conforto, vite infilata nella gomma, Nick da Firenze. Aia, aia. Mentre Fungo e Forlo, in rappresentanza di veri radioascoltatori di Rock FM, auspicano strombazzata per richiamo pomeridiano in questura, nella speranza che tra le foto segnaletiche da visionare non ci siano le nostre. O quantomeno Fungo e Forlo, anche se ci fossero, nella speranza che siete venuti bene. Perché metti che c'è la vostra foto venuta male, sono cose che segnano quelle, eh? Perché poi in questura c'è il faccione anche questo qui, che faccia che c'ha, invece se viene un po' bene affidiamo il futuro di questa giornata al buon David, via, lo chiamiamo così, e all'uomo che arriva dallo spazio, la la la. Didn't know what time it was, the lights were low, oh, oh. I leaned back on my radio, oh, oh. Some cat was laying down some rock and roll, that is so he said. Then the loud sound, it seemed to fight. Came back like a slow voice on a wave of fight. That one, no DJ, that was hazy. There's a snowman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a snowman waiting in the sky. He told us not to blow it, 'cause he knows it's all worthwhile. He told me, let the children lose it, let the children use it, let all the children do get. Look out your window, I can see his light. If we can sparkle, he may land tonight. Don't tell your papa, or he'll get us locked up in time. There's a sound. Blow it, 'cause he knows it's all worthwhile. He's bello scanzonato il nostro David Bowie. La, la, la, la, la. Sarebbe bello vedervi entrare in ufficio, belli nel vostro tailleur, belle nel vostro tailleur, canticchiando. Na, na, na, na, na. Così di giovedì verso il fine settimana. Ci vuole un po' di allegria in questi uffici, dai, su, se no gna famo, d'altra parte. Ieri con Freak parlavamo della possibilità di aprire un nuovo programma chiamato, cosa diceva, aspetta un po', Risate Obbligatorie. Potrebbe essere vincente come nome, no? Che fortuna che ho a parlare tutti i giorni con Freak. È un universo che si apre di fronte. È parecchio tempo che non ci stiamo occupando di una rubrica che invece aveva un discreto successo, dedicata agli amici che a quest'ora stanno entrando nel loro, nella loro postazione lavorativa, o meglio, ci sarebbero già dovuti entrare 5-6 minuti fa, quindi sono ufficialmente in ritardo. Servizio a favore del radioascoltatore. Il ritardatario ritardato. Non frapponete alcuna remora morale tra il problema e la sua soluzione. La scusa di oggi, interpreta il maestro di giustificazioni Roberto Fricantoni. Direttore, io so di essere imperdonabile, ma la prego, davvero, faccia un altro sforzo, mi perdoni. Vede, io stamattina sono uscito per tempo e ho deciso di prendere la tangenziale proprio per far prima, risparmiare tempo ed arrivare puntuale, in orario. Lei davvero non mi crederà mai. A un certo punto è sbucato un disco volante che si è piazzato proprio davanti alla mia automobile e andava pianissimo a 20 chilometri all'ora, una vera lumaca gigantesca. In più non mi lasciava passare, diventava minaccioso quando tentavo di superarlo, anche a destra, a sinistra, insomma, appena vedevo uno spazio ci provavo, ma capito? Mettevo la freccia per passarlo, lui si spostava sulla sinistra con la sua astronave, cacciando fuori quella sua manina verde, la manina dell'alieno, l'alieno autista dell'astronave evidentemente, e mostrandomi il dito medio. Un dito medio verde, enorme, gigantesco, che non dimenticherò mai. Il ritardatario ritardato. Non dimenticate, una buona scusa è quello che ci vuole per qualsiasi ritardo doloso. È un servizio a favore del radioascoltatore, offerto da Rock FM. Si può fare, cantava la premiata forneria Marconi. Le linee di contatto sono sempre allertate, sono sempre aperte e io sono sempre curioso di ospitare radioascoltatori che fanno lavori rock e che si trovano in situazioni rock. Ciao Luca. Ciao, buona giornata. Per il reparto non ci sono più le mezze stagioni, primo, e secondo, questa telefonata è dedicata al Prussia, il nostro esperto di dialetto dolomitico, che da quelle parti la neve proprio l'aspettano sempre come manna. Invece no, nevica da Luca. Ma Luca dov'è? A Pisa. Luca, no, mi sei morto. No, l'abbiamo... Non ti avremo mica perso. Ci sei? No, ci sono, ok. Luca è sotto una tempesta di neve a Pisa. In provincia. Provincia di Pisa, provincia sì, sulle di... colline della provincia sud di Pisa, a due passi dal mare. Sì. E nevica. Lo scenario sarebbe incantevole se non fosse che appunto sono qua per lavoro e non mi posso muovere. Tra l'altro fai un lavoro molto rock perché mi controlli la centrale eolica. Sì, cioè c'hai i paloni giganti davanti? Sì, paloni giganti, yeah. E niente, mi faccio il controllo sia a livello meccanico sia a livello elettronico. Certo. Guarda Luca, ho questa immagine di te molto rock, che scali il palo del palone. Lo chiamiamo il concio. Il concio. Sì, il concio. Però tipo ti immagino che lo sali, sai come fanno gli aborigeni con una corda legata alla schiena e davanti vai su, vai in cima e con un'ampolla di olio mi oli le gigantesche pale che girano. È così il tuo lavoro? Beh sì, diciamo di sì, sì, solo che la scalata si fa dall'interno e non dall'esterno. No, per il resto figa. È così. A chiocciola? No, dritto. No, dritta. Ti assicuro che quando arrivi in cima sei da buttare. Se non fosse che poi devi tornare su, ti verrebbe voglia di scendere, bro. Più che altro storie che di vertigini non ne puoi soffrire, perché sennò va a finire malissimo. Vertigini non esistono. Diciamo pure mal d'aereo, perché quando sei in cima... Cioè, fino a quanto arrivi? Quanto sali? Queste qua sono 63 metri di altezza del palo. Oh. Però arriviamo fino a 125 in certe zone d'Italia. Mi immagino qualche impiegato stufo del suo lavoro, magari qui a Milano, che immagina, caspita, vorrei farlo io. Ci sta, Poi magari vi do il contatto di Luca, vi mettete d'accordo. Sotto la neve, però. Sotto la neve. Adesso sono sotto la neve, sono qui nel mio pandino, a macchine di servizio e niente. Stai lì e aspetti e guardi le pale che girano. Anche questa immagine delle pale che girano alle 7.45. Direi che con una L sola, però. Può essere, sì. Ci sta, a volte le L si perdono così. Sì. Nel tragitto. No, ma è un bel lavoro. Ora, a parte, cioè, fondamentalmente, se come giorni scorsi non ci sono guai, non ci sono problemi, si sta belli tranquilli. Si sta tranquilli. Poi, vabbè, capita di dover magari fare un controllo sul computer di ogni torre, vabbè, comunque non è niente di che. Nulla di... No, però no. Sembrava molto carino, un po' questa immagine della neve su Pisa. Sì, ora magari su Pisa città magari... Giù starà piovendo. Sta piovendo, esatto. Comunque, ti ho detto, sono partito da casa stamani alle 6:30, dico, guardo il termometro 5 gradi. Quando sono stato sulla statale ho alzato gli occhi, ho visto la collina dove devo venire, bianca. Dico, anche oggi sono catene da neve, infatti. Qui preoccupato Daniele ci dice in diretta, sono nella parte est centrale di Pisa, ma qui non nevica, no? Appunto, ma Luca è su. Io sono su, sono sui 700 metri circa. Però da te a lui ci saranno un 20 chilometri. In linea d'aria sì, forse meno. Esatto. Forse meno, perché di strada... Da me arrivare ai margini sud di Pisa sono... Attenzione, mi viene un appello al volo da fare a tutti gli amici pisani in ascolto: mollate il lavoro per quest'oggi, si va da Luca a fare il pupazzo di neve. Potrebbe essere un'idea? Potrebbe essere un'idea. Tra un'ora, se continua, ce ne abbastanza. Esatto. Ciao Luca, buona giornata. Beh, se no fallo tu da solo e dedicalo a pane, burro e rock and roll. Va bene, dai. Buona giornata, ciao. Ciao ragazzi, anche a voi. Quando ti fai, sei qua. Ciao. Segnalazione sempre via mail. Grande Carla, vinti 1200 euro su Milano. Yeah! Call you up in the middle of the night, like a firefly without a light. You were there like a blowtorch burning. I was a key that could use a little turning. So tired that I couldn't even sleep. So many secrets I couldn't keep. I promised myself I wouldn't leave. One more promise I couldn't keep. It seems no one can help me now. I'm in too deep, there's no way out. This time I have really let myself. How to smile, make it somehow all seem worthwhile. How on earth did I get so jaded? Life's mystery seems so faded. I can go when no one else can go. I know when no one else knows. Here I am, just a drowning in the rain, with a ticket for a runaway train. Cut and dry, day and night, earth and sky. Somehow I just don't believe it. Runaway train, never going back. Wrong way on a one-way track. Seems like I should be getting somewhere. At the rain, a little out of touch, little insane. It's just easier than dealing with the pain. Runaway train, never going back. Wrong way on a one-way track. Seems like I should be getting somewhere. Ed eccoci arrivati, passo in passetto, metafora già usata molte altre volte. Qualche volta. Ma che rispolveriamo per l'occasione. L'occasione è giovedì 20 marzo. Sì. Amici ed amiche che ci ascoltate là fuori. Chi nacque quest'oggi? Ah, questa è la domanda. Sì. Il 20 marzo, ma del 1890, nacque il tenore. Famosissimo tenore attore italiano Beniamino Gigli. Ah, quanto è rock ricordarlo all'interno di Pane, Burro e Rock and Roll, come certamente è rock ricordare il compleanno del mitico Jimmy Von. Bravissimo. Ho detto bene, eh? Ha detto perfettamente, perché noi italiani scivoliamo sul Vaughan. Sì. In realtà la pronuncia esatta è Jimmy Von, che nacque nel 1951, chitarrista e compositore americano statunitense, fratello del più celebre, del più famoso Steve Ray Vaughan. Bravissimo, bravissimo. Mi raccomando, imparate la dizione. Chiudiamo con il mitico Spike Lee, che nasceva oggi nel 1957. Ricordiamo qualche film, signor Antoni? Ma sì, mi viene da ricordarlo, però in lingua bolognese. Prego. Mi scappa da dirlo in bolognese. Lei è molto sexy quando parla in bolognese, prego. Sono emozionato, è vero. Fa la cosa giusta, giusta, sì. Do the right thing, sì. Malcolm X, sì. SOS Summer of Sam, sì. Panico New York, sì. E la 25esima ora. Socma. Mica male, oh, lui qua è forte. Spike Lee, quello nero che sì. fa l'attore, anche il regista. Tutto, sì. Bravo lui lì, eh. Lui lì. Forte, oh, forte, grande. Grazie, bravo, maestro. Spike Lee, prego, è stato un piacere. Pare burro la che ro, mazza che sticata sto programma, ragazzi.